Focus Economia. Sette minuti, buonasera gentili ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, prima puntata della settimana di Focus Economia. La giornata economica di oggi è caratterizzata senz'altro dall'importante serie di accordi firmati tra Italia e Cina, che stanno proprio per essere ufficializzati in queste ore, alla presenza di tutte le autorità naturalmente, che fanno seguito agli accordi che erano stati firmati invece dalle missioni italiane in Cina. E invece, per quanto riguarda il resto delle notizie economiche di giornata, alle prese ancora naturalmente con le valutazioni della situazione della crisi economica, con gli inviti all'ottimismo del Presidente del Consiglio, qualche puntualizzazione al Presidente degli Industriali Emma Marcegaglia, valutazioni che vengono da Bruxelles. Faremo un punto anche su quanto pesa, e questa è un'inchiesta importante del Sole 24 Ore, oggi in edicola, l'economia sommersa, il nero, ma anche le attività illegali in Italia, un macigno enorme da 400 miliardi di euro. Le borse che in questo momento sono negative, con il Dow Jones che cede lo 0,6%, il Nasdaq l'1,32%, perdite attorno a 1,5% per le piazze europee, per le principali. Piazza Affari è la peggiore, con il FTSE MIB che cede il 2,5%, anche di questo parleremo più avanti nell'approfondimento delle 17.30, 349-238-6666 per i vostri sms come di consueto. Adesso andiamo con le notizie, le altre notizie economico-finanziarie della giornata. E cominciamo con il petrolio, che ha aperto in ribasso sul mercato di New York a cedere il 3,9%, adesso il greggio è sceso sotto i 65 dollari al barile, a 64,11 per l'esattezza. E tra l'altro è confermato per l'8 e il 9 di luglio, quindi preparatevi a fare le code dai benzinai, lo sciopero nazionale dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti, organizzato da FAEB, Confesercenti, FEGICA, CISL e anche dall'associazione di Confcommercio. Le motivazioni della protesta, ricordano i distributori, riguardano sia i rapporti con il governo sia i rapporti sempre più difficili con le compagnie petrolifere. E come se non bastasse, i distributori annunciano anche possibili nuovi agitazioni, quindi ai scioperi, immagino, oltre quello, lo ricordo, confermato dell'8 e del 9 di luglio. Sul fronte delle dichiarazioni, se vogliamo, delle valutazioni di quella che è la situazione dal punto di vista della crisi economica internazionale, allora registriamo prima di tutto una dichiarazione del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, che parla ancora una volta della situazione dal punto di vista della finanza nelle banche, e lui dice che la pulizia dei bilanci delle banche dagli asset tossici, non è stata ancora completata. Dunque una dichiarazione non del tutto tranquillizzante, e questo fatto, tra l'altro, secondo il direttore dell'FMI, condizionerà la rapidità con cui riusciremo a uscire dalla crisi economica. E invece da Bruxelles arrivano valutazioni sull'altro versante della crisi, quello che riguarda le finanze pubbliche, perché secondo un documento della Commissione europea pubblicato sul sito della Direzione Generale Ecofin, la crisi in questi mesi, pensate, ha annullato circa 20 anni di consolidamento delle finanze pubbliche in Europa, cioè tutti gli sforzi fatti dal governo per avere dei bilanci in regola e per non appesantire i deficit e i debiti naturalmente, sono andati in fumo. Almeno bisogna tornare indietro a 20 anni, per via di questi mesi di crisi, che naturalmente hanno significato spese e mancate entrate per via naturalmente della frenata dell'economia e del minor gettito erariale delle entrate fiscali per tutti i paesi coinvolti. Dunque anche su questo faremo un approfondimento da Bruxelles nella seconda parte di Focus Economia. Sempre dall'Europa, le valutazioni del Presidente della Commissione Europea, Manuel Barroso. Sono mesi che, no, settimane diciamo, che si alternano dichiarazioni di chi dice il peggio è passato, chi invece valuta con maggiore prudenza. Barroso, dove lo collochiamo quest'oggi? Allora, sentiamo. Non siamo più in caduta libera, dice Barroso, ma la crisi non è finita, non sappiamo ancora quando comincerà la ripresa. Dunque ancora qualche incertezza, secondo il Presidente della Commissione Europea. Dove vengono le note forse peggiori è sull'impatto sociale, perché dice Barroso l'impatto sociale della crisi durerà ancora più a lungo della crisi stessa e per questo servono misure piuttosto urgenti volte a contrastare la disoccupazione che sta aumentando. Sul fronte dei meno pessimisti, o se vogliamo proprio addirittura degli ottimisti, si colloca ancora una volta il governo italiano, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha detto oggi, a margine del forum Italia-Cina, di cui come detto ci occuperemo abbondantemente: io penso che il peggio sia passato per quanto riguarda la crisi, ha detto Berlusconi, che poi è tornato a come dire, a inserire dosi di ottimismo anche proprio per quanto riguarda il nostro patriottismo, perché ha detto l'Italia uscirà meglio di altri paesi dalla crisi. Sentiamo il Premier. Io sostengo che il peggio è passato, il Presidente invece ritiene che siamo ancora nel bel mezzo della crisi. Io, per conto mio, pensando alla situazione italiana, vi ho raccontato prima di come il nostro sistema bancario non ha subito disastri, di come le nostre famiglie sono famiglie di risparmiatori. E il numero elevato di famiglie italiane, l'87%, che hanno la proprietà della casa. E quindi gli ho detto che, a mio parere, in questa crisi l'Italia è messa meno male degli altri paesi e che soprattutto, essendosi un po' sfogati i momenti negativi del mondo della finanza, chi ha fatto fallimento l'ha fatto, le banche sono rimaste in piedi, oggi dobbiamo cercare di dare a loro fiducia, ottimismo e quindi di far sì che continuino a fare le banche e che continuino a sostenere chi investe, chi rischia, chi intraprende con il credito, che è appunto la loro attività principale. Ecco, io ho detto al Presidente che noi riteniamo che per quanto riguarda l'Italia abbiamo possibilità di uscire da questa crisi meglio di altri paesi, nostri colleghi in Europa, ma che soprattutto siamo convinti che la nostra sia adesso una crisi psicologica, perché il fattore della paura è un fattore che determina una contrazione dei consumi. Sì, qua il Presidente del Consiglio Berlusconi, come detto, a margine del forum Italia-Cina. E invece da Torino ha parlato la Presidente degli Industriali Emma Marcegaglia, che ha puntualizzato qualche piccolo segnale di miglioramento c'è, soprattutto in Cina, quindi siamo proprio in argomento oggi. Qualcosa si intravede anche negli Stati Uniti, ha detto Marcegaglia, in termini di fiducia dei consumatori, ma non bisogna abbassare la guardia. Sentiamo Marcegaglia. In questi giorni noi stiamo dicendo che effettivamente qualche piccolo segnale di miglioramento c'è, soprattutto in Cina per esempio, qualche cosa si intravede negli Stati Uniti, qualcosa in termini anche di fiducia dei consumatori si intravede come miglioramento, ma come stiamo dicendo ormai da settimane, noi diciamo non bisogna abbassare la guardia, l'emergenza non è affatto finita, anzi noi rischiamo che un pezzo del nostro sistema produttivo, soprattutto le piccole medie imprese più fragili, meno capitalizzate, possano chiudere, possono morire, quindi siamo ancora in emergenza ed è fondamentale continuare a stare vicino alle imprese. Sempre Emma Marcegaglia, a proposito del prossimo G8 che si svolgerà, come sapete, all'Aquila, ha detto ci aspettiamo molto da questo incontro, da questo vertice, soprattutto per quanto riguarda nuove regole per la finanza internazionale. Insomma, è davvero importante questo incontro alle porte, perché le attese sono alte e vedremo se la guida italiana, ma non solo, insomma, servirà a imprimere un'accelerazione per arrivare a questa riforma in qualche modo delle regole della finanza e dell'economia internazionale, per evitare che si ritorni indietro a rivivere mesi come questi, i mesi della crisi economica. Per quanto riguarda invece la situazione italiana, oltre a parlare di qualche piccolo segnale di miglioramento, Marcegaglia, rivolta al governo, ha detto: ci aspettiamo ancora molto, soprattutto per quanto riguarda risposte sui crediti della pubblica amministrazione. E poi le riforme sono sempre le stesse, le liberalizzazioni e le riforme nella scuola, nell'università e nella ricerca. Questo il punto di Emma Marcegaglia a margine dell'Assemblea delle Unioni degli Industriali di Torino questa mattina, e l'abbiamo sentita al microfono della nostra Silvia Alparone. E poi, come detto, ci sono i numeri presentati oggi dal Sole 24 Ore, di cui ci occuperemo più avanti, che riguardano la criminalità e l'economia sommersa, che pesano in Italia per 400 miliardi di euro. Si tratta naturalmente di una stima che andremo a dettagliare più avanti, ma è una stima credibile perché, insomma, le fonti sono tutte fonti ufficiali e le cifre sono quelle che ballano da anni. Cercheremo di capire anche se aumentano, se sono stabili o se invece, come tutti speriamo, piano piano, con molti sforzi a parte di tutti, diminuiscano. Bene, 17:18 minuti, adesso cominciamo invece con il primo approfondimento di giornata, che, come anticipato più volte, riguarda i protocolli, le intese che si stanno firmando proprio in queste ore a Roma tra la delegazione cinese e le autorità italiane. E dunque la visita della delegazione cinese ha preso il via dal saluto tra il presidente cinese Hu Jintao, ne ha parlato anche Jefferson Ming fino a poco fa, il presidente napolitano nel cortile del Quirinale. La precedente visita risale a 10 anni fa, quindi un momento importante tra i due paesi. Ricordiamo che vale circa 30 miliardi di euro la partnership economica tra l'Italia e la Cina, un rapporto in espansione ma ancora segnato da un forte squilibrio commerciale, naturalmente, manco a dirlo, a favore della Cina. E allora, prima di addentrarci in quelle anche che sono le cifre e le valutazioni su questi accordi, leggiamo qualche dichiarazione. Il presidente Hu Jintao: vogliamo un equilibrio, un interscambio equilibrato. Così Hu Jintao in conferenza stampa con il presidente Silvio Berlusconi a Villa Madama. E nonostante invece le difficoltà rilevanti di questo periodo di crisi, ha detto Berlusconi, ci congratuliamo con il governo cinese perché anche quest'anno è riuscito, come gli altri, a realizzare uno sviluppo superiore all'8%. Questo è importante per tutta l'economia internazionale perché, come sappiamo, l'economia cinese sta dando anche quel poco di linfa che ancora c'è nell'economia, appunto, di tutti gli altri paesi. Cominciamo allora sentendo questa prima dichiarazione del premier Berlusconi. Abbiamo sommariamente parlato dei vari temi, di alcuni abbiamo parlato più in profondità, abbiamo parlato in profondità del tema del clima, dei pacchetti climatici, ci siamo espressi le rispettive posizioni che approfondiremo e porteremo sul tavolo con gli altri nostri colleghi. Importante anche ciò che riguarda le regole globali che il mondo si deve dare per un'economia globale affinché non si ripeta più ciò che ha determinato la crisi prima finanziaria e poi per ricaduta economica. Abbiamo parlato di ciò che i nostri due stati fanno per stare vicino ai loro cittadini che perdono il lavoro. I numeri naturalmente della Cina sono numeri 23 volte i nostri, e quindi quando ci sentiamo dire i numeri degli studenti che escono dalle università ogni anno che devono trovare un lavoro, restiamo attoniti. E così quando sentiamo parlare del numero di persone che hanno perso il posto di lavoro. Quindi una difficoltà a governare rilevante, però una difficoltà che la Repubblica Cinese ha superato molto bene negli ultimi anni, nei quali il prodotto è sempre stato superiore all'8%, e dalle notizie che questa mattina ci ha dato il Presidente, noi ci congratuliamo che anche quest'anno, nell'anno della crisi, possa essere raggiunto questo traguardo di sviluppo dell'8%. E sin qua Berlusconi a commentare l'andamento dell'economia cinese. Per quanto riguarda invece l'obiettivo che l'Italia si pone, il Premier ha detto: vogliamo in 3 anni entrare tra i primi 3 paesi che hanno investimenti in Cina. Dunque una sfida davvero importante. Ricordiamo che fino a questo momento l'Italia è il 4° partner commerciale della Cina. Allora sentiamo il Premier. Noi siamo il 5° paese europeo quanto a investimenti in Cina. Bene, diamoci una missione: senza stabilire un traguardo non si arriva a nulla. I traguardi devono essere ambiziosi, è come a scuola, nella vita: se si vuole puntare all'8 bisogna dire voglio arrivare al 10. Diciamo che vogliamo in 3 anni diventare uno dei primi 3 paesi che abbiano investimenti in Cina. E sempre per quanto riguarda gli auspici, la speranza è quella che la collaborazione tra l'Italia e la Cina cresca sempre di più. E allora sentiamo anche questo passaggio della conferenza di Berlusconi. Temi bilaterali, lo vedete, l'avete visto, con la firma di tutti questi accordi, che sono numerosi, importanti, e portano innanzi lo sviluppo delle relazioni bilaterali, che si sono sviluppate di oltre il 20% in quest'ultimo anno, seppure anno di crisi, che stanno veleggiando verso i 38 miliardi di euro e che contiamo di sviluppare molto di più in futuro. Il Presidente è venuto in Italia accompagnato da una folta delegazione di imprenditori, molti nostri imprenditori hanno avuto colloqui bilaterali. Altri accordi sono in divenire. Celebreremo qui nel 2010, l'anno prossimo, l'anno della cultura cinese in Italia. Io ho promesso una mia visita in Cina per l'Expo 2010, che ci vedrà protagonisti con la mostra di tutte le eccellenze italiane in uno stand di oltre 6.000 metri quadrati. Il Presidente mi ha confermato la collaborazione tra l'Expo 2010 e l'Expo 2015 a Milano. E allora veniamo a quelli che sono gli accordi, un totale di 38 accordi dal valore complessivo di circa 2 miliardi di euro che coprono praticamente tutti i settori dell'economia. E sono queste le intese siglate oggi nel forum Italia-Cina da diverse società italiane di fronte ai ministeri dei due paesi. La parte del leone la fa la Fiat, tra poco ce ne occupiamo, con 8 accordi per circa 625 milioni di dollari, ma tra le società che hanno stretto intese ci sono anche altri gruppi di primo piano. Adesso non possiamo entrare nei dettagli perché si tratta anche di accordi tecnici, ma insomma citiamo l'accordo che ha fatto Mediobanca con China Development Bank per sostenere gli investimenti industriali reciproci, e poi i Generali, che ha siglato un memorandum di intesa, Ansaldo Breda, una partnership da 42 milioni di dollari per la commercializzazione nel mercato cinese di componenti elettrici ed elettronici per i veicoli metropolitani, ma ci sono anche accordi minori. E veniamo ai commenti del Presidente degli Industriali, Emma Marcegaglia. Naturalmente soddisfazione per questi accordi, in particolare per quanto riguarda l'accordo che investe la Fiat e di cui tra poco anche cercheremo di svelare i dettagli. Marcegaglia. È una giornata direi di portata storica, alla presenza del Presidente Berlusconi e del Presidente cinese firmeremo vari accordi per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro, ci sono qui più di 500 imprenditori italiani, ce ne saranno 300 cinesi, questo è un modo per far sì che i rapporti tra le nostre imprese, tra il nostro mondo imprenditoriale e quello cinese diventi ancora più profondo, non solo con le esportazioni ma anche con una serie di joint venture di aziende comuni che verranno avviate in molti settori, anche nei settori più promettenti, la ricerca, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili. Quindi è una grande opportunità per l'industria italiana, questo potrà aiutare a uscire da questa crisi. Oggi la Cina è l'unico paese veramente in ripresa nell'economia mondiale. C'è anche l'accordo Fiat, che oltre a questo è molto importante. Grazie a questo accordo la Fiat tornerà a produrre macchine dal 2011 con un nuovo stabilimento, quindi è estremamente importante. Poi ci sono tante aziende del Made in Italy che firmeranno proprio oggi degli accordi, quindi come dicevo prima è una giornata che ha una portata storica. E allora salutiamo il nostro Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore, col quale dialoghiamo sempre di Fiat. Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. L'accordo, adesso ce lo spieghi un pochino tu, la cornice è questa, l'accordo tra la Fiat e GAC, il nome è più o meno impronunciabile, Guangzhou Automobile Group, riguarda la costruzione di una società mista che produrrà auto in Cina. I numeri, sì. Dunque l'accordo è il tipo di accordo standard che viene fatto dalle aziende occidentali di auto in Cina, quindi devono avere un partner cinese al 50%, il partner in questo caso la Guangzhou Auto è un partner di peso perché è già associato in Cina sia a Honda che a Toyota ed è uno dei gruppi maggiori nel mercato cinese, l'anno scorso ha prodotto circa 500.000 auto. Quindi un partner sicuramente più solido della Nanjing, da cui Fiat aveva divorziato un paio d'anni fa, e anche della Chery, con la quale ha avuto dei negoziati per parecchio tempo che poi non sono andati a buon fine. Quindi per Fiat è un momento importante, nel senso che pone le basi per ripartire sul mercato cinese, è un accordo importante dal punto di vista strategico, non ha un impatto immediato, abbiamo sentito che la produzione di auto dovrebbe cominciare a fine 2011, quindi tra un paio d'anni o poco più, però è appunto importante per ristabilire la propria posizione in un mercato che, come ha detto Emma Marcegaglia, è uno dei pochi che in questo momento presentano le prospettive di espansione per i prossimi anni. Andrea, da questo punto di vista i numeri non sono, come dici tu, l'impatto economico non sarà altissimo, 140.000 vetture prodotte, ma sappiamo che Marchionne è in testa delle cifre insomma, per consolidare Fiat che sono molto più alte, potrà in futuro magari crescere il numero di vetture prodotte in Cina? Diciamo che l'obiettivo iniziale quando è arrivato Marchionne qualche anno fa per il mercato cinese era di arrivare a 300.000 vetture nel 2010. Le cose poi con Nanjing non sono andate bene, con Chery non è decollato. Ricordiamo che peraltro il settore auto è uno dei pochi in Cina dove Fiat non va bene. Iveco per esempio ha delle joint venture consolidate e ha un'ottima posizione di mercato. Per una serie di motivi nell'auto non è andata così, per cui le 300.000 erano obiettivo iniziale, probabilmente si potrà tornare a questo obiettivo, però giustamente in questo momento Fiat vuole restare coi piedi per terra e prima vedere se questa joint con il nuovo partner funziona. Il partner, come l'abbiamo detto all'inizio, è di provata affidabilità e ha avuto successo con le sue aziende, gli accordi con le aziende giapponesi, quindi ci sono le basi per sperare in un risultato migliore che con Nanjing. E come abbiamo visto, tra l'altro i dati più recenti dell'ultimo paio di mesi parlano di un rimbalzo molto significativo nel mercato cinese dell'auto, quindi le prospettive sono buone. Ovviamente Fiat dovrà accelerare il più possibile per arrivare in tempi appunto non troppo lunghi e cercare di approfittare in parte di questa ripresa del mercato, anche perché, come sappiamo, appunto, essendo uno dei pochi mercati che cresce, fa gola a tutti e cercheranno tutti i concorrenti di buttarci il più presto possibile. Andrea, resta ancora un secondo con noi perché vogliamo chiederti anche qualche cosa della nuova 500 che non sappiamo ancora dove, ma deve sbarcare negli Stati Uniti e festeggia ottimi risultati in Francia. Prima però sentiamo il presidente di Fiat Montezemolo che ha parlato a proposito di questo accordo, di una tappa importante per Fiat. Sentiamo. Penso che sia una cosa di forte soddisfazione per il rilancio della nostra presenza in Cina, per un'ulteriore internazionalizzazione di auto e delle tecnologie e dei motori Fiat, motori e tecnologia Fiat che hanno avuto già un ruolo così importante, se non addirittura fondamentale negli Stati Uniti nell'accordo con Chrysler. Quindi grande soddisfazione, una tappa forte, importante, con un partner molto forte nell'internazionalizzazione della presenza di Fiat Auto e delle nostre tecnologie. Andrea Malan, allora, come detto, la nuova 500 che registra successi di vendite in Francia, e questo naturalmente c'era da aspettarselo, perché insomma non è la prima volta che questo tipo di vetture prodotte dall'Italia vanno bene anche nei paesi europei, in Francia in particolare. Per quanto riguarda invece la scommessa sul mercato americano, siamo ancora a livello delle indiscrezioni, ma insomma le varie pezzi del mosaico stanno andando al loro posto. Sì, diciamo che si parla già di una sede possibile di produzione della 500 negli Stati Uniti. Oggi i vertici di Fiat hanno detto che è ancora presto per appunto parlare di questi dettagli. Comunque diciamo che il susseguirsi delle indiscrezioni mostra comunque che la squadra di Fiat si è messa al lavoro a pieno ritmo, e l'obiettivo, come ha confermato oggi John Elkann, è di portare la 500 sul mercato americano tra la fine dell'anno prossimo e l'inizio del 2011, quindi in tempi relativamente brevi e comunque tali da permettere di fare da apripista poi ai vari modelli Alfa Romeo che sappiamo essere in programma per il mercato americano. E sono poi anche la parte che forse interessa di più anche a Fiat. Grazie Andrea Malan per essere stato con noi. Minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. C'è chi al 349-238-6666 ci scrive, come Paolo da Alessandria, dice: le aziende cinesi si sono rivelate inaffidabili sotto molti punti di vista. Dove è finito il rilancio del Made in Italy? Abbiamo parlato nella prima parte del programma del Forum Italia-Cina e dei 38 accordi chiusi tra l'Italia e la Cina. Beh, insomma, le aziende cinesi inaffidabili, questo non lo so, può darsi che sia successo. Il Made in Italy però sicuramente credo, Paolo, che passi anche attraverso accordi come quelli firmati oggi. Adesso invece ci occupiamo di borsa. E allora, non è una giornata entusiasmante, anzi ci sono cali che per quanto riguarda Milano sono anche più pesanti che del resto d'Europa. Cominciamo però da Wall Street, dove il Dow Jones cede lo 0,4%, il Nasdaq l'1,16%, le piazze europee sono in ribasso tra l'1 e un punto e mezzo in percentuale, Parigi, Londra e Francoforte. A Piazza Affari il FTSE MIB è in ribasso del 2,03%, a guidare i ribassi Saipem, tra i principali titoli c'è del 4,07%, Banco Popolare meno 4%, Fondiaria Sai meno 3,3%, Banca Montepaschi Siena, evidentemente oggi è una giornata nera, Unicredit per i bancari cedono 3 punti in percentuale. E poi adesso daremo un'occhiata anche agli altri titoli in controtendenza. Oggi sul listino milanese c'è Ansaldo a guadagnare l'1,8%, Finmeccanica l'1,34%, va benino anche Snam Rete Gas che galleggia a più 0,4%. Cercheremo di vedere un po' perché e per come. Leonora Micheli di Radio Cor, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, guardando nella parte bassa vediamo un sacco di titoli del settore bancario. Che succede? Ma guarda, oggi appunto come hai detto tu le vendite si sono concentrate soprattutto sulle banche, questo peraltro non solo a Piazza Affari ma anche nel resto d'Europa. L'indice appunto bancario europeo ha perso quasi il 2%, e poi l'altro settore appunto dove si sono concentrate le vendite è stato quello del comparto dell'energia, ma nel primo caso può essere anche un motivo tecnico, sono i titoli che ovviamente nei mesi scorsi hanno corso di più, quelli delle banche, e quindi nel momento in cui c'è incertezza gli investitori vendono evidentemente dove possono ancora far profitto. Per quanto riguarda invece i titoli petroliferi, meno 2,87 il sottoindice europeo del comparto, a incoraggiare gli ordini in vendita è stato ovviamente il violento ribasso accusato dal valore del greggio. Ricordiamo che a fine giugno, ovvero a metà della scorsa settimana, navigava attorno ai $72 al barile, mentre oggi si attesta $64 al barile, anzi poco fa era andato anche sotto la soglia dei $64. Bene, esaurito così, diciamo, il capitolo dei ribassi, adesso vogliamo invece guardare a qualche nota di ottimismo. Abbiamo detto che in cima al listino ci sono un paio di titoli, Ansaldo e Finmeccanica, entrambi guadagnano 1,5% in percentuale all'incirca. Eleonora, che tipo di valutazioni fa il mercato oggi attorno a questi titoli? Guarda, su Finmeccanica più 1,34 è dalla scorsa settimana che il mercato si interroga che cosa stia succedendo. Infatti prima era uscito da Gospia il sito, poi ripreso dai giornali, secondo cui il fondo sovrano libico starebbe puntando ad acquistare un pacchetto. Inizialmente si diceva del 10%, la notizia è stata smentita anche perché occorrerebbe il benestare del governo per ogni pacchetto che sia superiore al 3%, visto che oltre il 30% della società è in mano appunto statale. Detto questo, però, sono continuate le indiscrezioni di stampa che riferiscono di un interesse appunto del fondo sovrano libico che sembra stia acquistando un pacchetto almeno pari al 2%. Stiamo a vedere nei prossimi giorni, magari se il pacchetto è superiore al 2% sarà la stessa Consob a appunto renderlo noto. Intanto il mercato comunque ci crede e ha fatto salire le azioni. Per quanto riguarda invece Ansaldo, si può dire che i titoli navigano sui massimi, è da un po' che sono sotto i riflettori, probabilmente perché in verità è in fermento tutto il settore dei trasporti, anche dopo la notizia riportata la scorsa settimana che la francese Alstom sta per ricevere una maxi commessa da 15 miliardi di euro dalle ferrovie francesi. Eleonora, c'è un ascoltatore che ci anticipa e ci chiede perché sta crollando Pirelli Re, e te la giro questa domanda, non so se sei in grado naturalmente di rispondere. Sì, Pirelli Re sta... allora, innanzitutto venerdì scorso... si è verificato un vero e proprio crollo, però era un po' scritto, nel senso che venerdì scorso si è chiuso l'aumento di capitale che ha effettuato la società. Fino al venerdì prima era possibile contrattare a Piazza Affari i diritti di opzione relativi all'aumento di capitale, e i diritti di opzione sono sempre stati disallineati al prezzo delle azioni, indicavano un prezzo delle azioni appunto pari all'attuale intorno a 0,5 euro per azione. E più volte ne abbiamo parlato anche in radio di questo disallineamento. Certo. Le azioni invece si attestavano a un prezzo nettamente superiore, pari a 1,7, comunque sempre stato superiore a 1 euro. Finito l'aumento di capitale, ovviamente le azioni sono tornate al prezzo che era indicato in verità dai diritti. Purtroppo si è verificato un disallineamento che è stato favorito anche dal fatto che non è più possibile effettuare arbitraggi. Il prezzo relativo delle nuove azioni in aumento di capitale era molto più basso dei titoli precedentemente all'aumento di capitale, e quindi tutto questo ha comportato sia il disallineamento sia il fatto che i titoli non siano andati poi al valore. È quello che era già avvenuto in occasione dell'operazione di aumento di capitale di Seat. Benissimo, cioè malissimo per Pirelli Re. Grazie Eleonora Micheli di Radio Corre il Sole 24 Ore. Ed eccoci qua, adesso come anticipato vogliamo parlare di tutta quella parte dell'economia che fa capo alle attività fuori legge, cioè l'economia sommersa ma anche le attività legate proprio più direttamente all'illegalità. Perché? Perché secondo un'inchiesta del Sole 24 Ore oggi in edicola, la cifra raggiunta in Italia dalla somma di tutte queste attività sfiora i 420 miliardi di euro, una cifra incredibile. E allora ne vogliamo parlare con il professor Carlo Trigilia, docente di sociologia economica presso l'Università di Firenze. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio. Allora, professore, la cifra è davvero impressionante, 419 miliardi di euro. L'Italia somma due serie di cattive davvero abitudini. Da una parte abbiamo l'economia sommersa con 250 miliardi di euro, se vogliamo andare nel dettaglio ci sono 150 miliardi di euro di attività di economia sommersa e un centinaio di miliardi di euro di tasse evase, IRPEF, IRES, IRAP, IVA, contributi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte abbiamo 170 miliardi di economia illegale, e anche qua l'elenco è sempre molto interessante e istruttivo. Si va dalla 59 miliardi, sono stime naturalmente, di attività legate alla droga, il contrabbando, l'usura per 35 miliardi, le ecomafie, l'abusivismo edilizio è un capitolo importante, 20 miliardi di euro. Professore, prima di tutto un commento su questa cifra che è davvero, come abbiamo detto, impressionante, e da quello che è il suo angolo visuale, una cifra che è stabile nel tempo in Italia o che è addirittura magari in aumento, oppure come tutti speriamo in calo in qualche modo nel corso del tempo in questo paese? Come lei diceva, innanzitutto le cifre fanno paura, cioè sono cifre, sono dati che veramente impressionano. Naturalmente si tratta di stime, soprattutto per quanto riguarda l'economia criminale si può facilmente intuire che non è facile misurare il giro di affari delle varie componenti che costituiscono l'economia criminale. Un pochino più precise possono essere, ma sempre si tratta di stime, le cifre relative all'economia irregolare o sommersa, cioè alla produzione di beni legali con mezzi in tutto o in parte illegali, quindi lavoro nero, evasione fiscale, eccetera. Credo che al di là dell'entità complessiva della stima, quindi si parla di oltre 400 miliardi di euro, quasi un quarto del PIL degli ultimi anni, quello che deve fare riflettere è la combinazione che noi abbiamo nella situazione italiana tra un'economia sommersa, particolarmente diffusa, particolarmente sommersa, e l'economia criminale. Forse questa è la particolarità del nostro paese, sommare purtroppo due situazioni fortemente negative che costituiscono poi portano a quel risultato. Ecco, noi credo tutti un po' siamo ormai abituati a pensare all'economia sommersa, anche alle attività illecite, come a qualcosa di immodificabile, a cui purtroppo non si riesce a fare a meno, e insomma che bisogna prenderlo così in blocco. Invece, anche se fosse altro per rinfrescarci la memoria, professore, cerchiamo di fare invece un'elencazione di quelle che sono le possibili cause e quindi anche i possibili interventi per poter appunto capire e anche intervenire su questo fenomeno che è immenso, ma che se non lo prendiamo mai da nessuna parte probabilmente forse addirittura è destinato a crescere. Lei nel suo editoriale sul Sole 24 Ore accenna a molti aspetti per quanto riguarda le cause, dalla disoccupazione, quindi la forza lavoro disponibile, a questioni di carattere sociale e culturale, lo scarso senso civico degli italiani, a questioni legislative. Cominciamo allora dal suo punto di vista, punto per punto, una causa e un possibile intervento. Il fenomeno, come lei diceva, è molto complesso e quindi se noi vogliamo cercare di intervenire in modo credibile su questo fenomeno che configura una sorta di economia e di società parallela in Italia rispetto a quella visibile, emersa, che paga le tasse, che è in regola con le leggi, se noi vogliamo cercare di intervenire per ridurre il peso di questa società, di questa economia parallela, dobbiamo analizzare con attenzione le cause e purtroppo non ce n'è una. Cominciando dall'economia irregolare, è evidente che anzitutto c'è una offerta di lavoro disponibile in questo settore, e qui abbiamo delle particolarità che sono la presenza di una forte disoccupazione, difficoltà occupazionali per i giovani in particolare e per il mezzogiorno in particolare. Teniamo presente che per esempio nel sud il lavoro irregolare è circa doppio di quello del nord. Ma io credo che bisogna fare un discorso anche per quel che riguarda il fatto che noi abbiamo una particolarità in Italia che forse non c'è in altri paesi, cioè baby pensionati molto giovani, il 30% dei nostri pensionati ha tra i 40 e anche questi si prestano naturalmente a fare attività economiche e si offrono sommerse, evidente. Naturalmente spesso non possono fare un lavoro legale. Ecco, qua da questo punto di vista immaginiamo che la soluzione sia piuttosto semplice, sarebbe quella di diminuire la disoccupazione e insomma dare altre offerte di lavoro a chi poi invece si presta a questo tipo di attività economiche. Quindi questo tipo di intervento, se vogliamo, si dice da sé. Invece con le altre cause, professore? Poi ci sono delle cause regolative naturalmente che hanno a che fare, si pensa spesso che manchino le sanzioni, le sanzioni ci sono e quando ci si incappa sono sanzioni dure. Naturalmente sono più deboli e meno efficienti e efficaci i controlli, quindi andrebbero rafforzati, ma teniamo presente che noi abbiamo una struttura produttiva che per oltre il 90% è fatta di piccolissime imprese, sia nel manifatturiero che nei servizi, quindi è anche molto difficile controllare queste imprese e molte di queste imprese possono riprodursi semplicemente se riescono ad evadere le tasse o non pagare i contributi sociali, perché il loro livello di produttività è molto basso. Poi mi pare che tra le cause lei parli anche, ora sta accennando al discorso dell'evasione, di un peso eccessivo, anche questo sappiamo è una causa endemica in Italia della tassazione appunto, e anche dei contributi. Qua mi viene in mente l'intervento del governo Prodi che aveva puntato sul cuneo fiscale, poi non si sa più che fine ha fatto. Era quella una direzione di intervento utile da questo punto di vista, professore? Ma, indubbiamente la riduzione della pressione fiscale sulle imprese è un elemento che può incoraggiare l'emersione. Naturalmente non facciamoci troppe illusioni, perché se questo non è accompagnato da interventi più attivi che soprattutto nel mezzogiorno sostengano uno sviluppo credibile e sostenibile, probabilmente non basta. Così come un'altra misura importante di cui spesso si è parlato sul piano regolativo riguarda la rigidità dei rapporti di lavoro, la possibilità soprattutto di assumere e licenziare, e quindi diciamo una certa rigidità che è unita al peso dei contributi sociali scoraggia naturalmente spesso il lavoro legale, soprattutto per le imprese che hanno problemi di bassa produttività. Teniamo presente che tutti sappiamo che il costo del lavoro è spesso doppio del salario effettivo, dello stipendio effettivo, quindi il datore di lavoro paga 100 e il lavoratore prende 50. C'è un altro aspetto che lei affronta nel suo commento a questa inchiesta del Sole 24 Ore e che qua viene proprio da buttarsi giù, professore, ci aiuti invece a tirarsi su, perché sono le cause socioculturali, cioè sembra quasi che noi italiani in qualche modo dobbiamo convivere con questa nostra attitudine ai traffici, all'illegalità, tutto rimanda poi a uno scarso senso civico, lei dice, del nostro paese. Ma io credo che questo sia un dato importante che noi dobbiamo tenere presente, perché molto spesso si pensa che il problema sia risolvibile solo con misure economiche, con misure relative alle azioni di contrasto, alle sanzioni, ai controlli. Io credo che dietro questo fenomeno così diffuso ci sia però una tara di tipo socioculturale, cioè appunto una carenza di cultura civica che fa sì che per molti italiani evadere il fisco o assumere o lavorare a nero sia una cosa considerata tutto sommato tollerabile, giustificabile, e forse, come dimostrano anche alcune indagini demoscopiche, alcune indagini di opinione, anche coloro che spesso diciamo sono vicini a una identità religiosa vivono queste esperienze comunque come delle esperienze non particolarmente gravi. Quindi questo è un problema storico del nostro paese, particolarmente forte nel mezzogiorno, e che tocca molto i giovani, e che ha a che fare poi anche con cose ancora più gravi dell'economia irregolare, cioè con l'economia criminale, che naturalmente trae giovamento dal fatto che c'è una forte disponibilità dei giovani ad entrare in quel circuito quando non trovano mezzi legittimi di promuovere il loro stessi, consumi, certo, di promuovere loro stessi, eccetera, e quando sono spesso animati da obiettivi di mobilità sociale promossi dalla cultura che spesso circola nei media, nelle televisioni, eccetera, e non sono ancorati a una radice di cultura civica più solida. E va bene, noi ci fermiamo qua, grazie, io la ringrazio professor Carlo Trigilia, docente di sociologia economica all'Università di Firenze, così giusto anche per rinfrescare un po' la memoria su, visto che insomma l'inchiesta del Sole 24 Ore, lo ricordo, porta questa cifra, 420 miliardi di euro, la parte dell'economia di questo paese che può essere ascrivibile all'economia in nero, al sommerso e a attività illegali, una cifra impressionante su cui abbiamo provato a riflettere. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. 18:10, ben ritrovati gentili ascoltatori, seconda parte di Focus Economia, come era naturale aspettarsi al nostro numero SMS 349-238-6666, ci sono reazioni, abbiamo parlato dei 420 miliardi di euro che il Sole 24 Ore stima siano la somma dell'economia sommersa e delle attività illegali in Italia e c'è chi se la prende con i lavoratori dipendenti statali che fanno il doppio lavoro, chi invece con gli artigiani. Solo una precisazione, non abbiamo fatto naturalmente nessuna accusa, nessuna categoria in particolare, ma l'inchiesta del Sole 24 Ore evidenzia un fenomeno che è un intrecciarsi di attività economiche, ripeto, sommerse e addirittura illegali, che riguardano forse tutti i settori dell'economia, riguardano tutte le categorie di lavoratori e che, ripetiamo, si portano via la bella somma di 420 miliardi di euro, una grossa parte del nostro prodotto interno lordo, e non sono davvero buone notizie. Adesso invece andiamo con le altre notizie e cominciare dal punto sulla crisi economica. E vogliamo cominciare prendendo in considerazione quelle che sono state le parole del presidente cinese Hu Jintao in conferenza stampa con il premier Silvio Berlusconi al termine degli incontri tra la delegazione cinese e quella italiana. Sono stati firmati, e ce ne siamo già occupati nella prima parte del programma, 38 accordi tra Italia e Cina, tra diverse società. La parte del leone, come già detto, l'ha fatta Fiat, che ha chiuso un accordo con la GAC per la produzione di autovetture in Cina nei prossimi anni. Ma dicevamo il punto sulla crisi economica. Hu Jintao ha detto: la crisi ci preoccupa ancora. Bisogna rafforzare ulteriormente per affrontare la crisi gli scambi commerciali, e questo riguarda noi in particolare, noi partner, gli scambi commerciali tra Italia e Cina, gli investimenti reciproci nei due paesi. E poi c'è anche l'elenco dei settori dove, secondo Hu Jintao, la partnership tra Italia e Cina dovrà aumentare, dovrà subire un'accelerazione, e si parla di televisioni, infrastrutture, logistica, automobile, ambiente, tecnologia, e poi ha detto Hu Jintao fare del risparmio energetico e del clima un nuovo settore per l'investimento. Penso che il peggio sia passato, è stata invece questa la posizione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che è tornato ancora una volta a dire che il nostro Paese uscirà meglio degli altri dalla crisi. Siamo sempre a margine del forum Italia-Cina, Berlusconi ha anche elogiato la Cina per la sua crescita dell'8%, che continua quindi a iniettare linfa nell'economia internazionale, ma sentiamo le valutazioni del Premier sulla congiuntura. Io sostengo che il peggio è passato, il Presidente invece ritiene che siamo ancora nel bel mezzo della crisi. Io, per conto mio, pensando alla situazione italiana, vi ho raccontato prima di come il nostro sistema bancario non ha subito disastri, di come le nostre famiglie sono famiglie di risparmiatori. E il numero elevato di famiglie italiane, l'87%, che hanno la proprietà della casa. E quindi gli ho detto che, a mio parere, in questa crisi l'Italia è messa meno male degli altri paesi, e che soprattutto, essendosi un po' sfogati i momenti negativi del mondo della finanza, chi ha fatto fallimento l'ha fatto, le banche sono rimaste in piedi, oggi dobbiamo cercare di dare a loro fiducia, ottimismo, e quindi di far sì che continuino a fare le banche e che continuino a sostenere chi investe, chi rischia, chi intraprende con il credito, che è appunto la loro attività principale. Ecco, io ho detto al Presidente che noi riteniamo che, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo possibilità di uscire da questa crisi meglio di altri paesi, nostri colleghi in Europa, ma che soprattutto siamo convinti che la nostra sia adesso una crisi psicologica, perché il fattore della paura è un fattore che determina una contrazione dei consumi. Sin qua dunque il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Allora riepiloghiamo. Il presidente cinese Hu Jintao dice la crisi ci preoccupa ancora. Berlusconi riprende invece questa argomentazione dicendo io penso che il peggio sia passato. Ma naturalmente sono settimane che si cerca di intravedere segnali da parte anche di tutti gli organismi internazionali, i governi, insomma segnali positivi, ma c'è chi si esprime con maggiore prudenza, c'è chi invece vede già segnali di ripresa. Il presidente degli industriali Emma Marcegaglia, a margine dell'assemblea degli industriali di Torino, dice sì, qualche piccolo segnale di miglioramento c'è, soprattutto, guarda caso, proprio dalla Cina, qualcosa si intravede anche negli Stati Uniti, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Sentiamo Marcegaglia. In questi giorni noi stiamo dicendo che effettivamente qualche piccolo segnale di miglioramento c'è, soprattutto in Cina per esempio, qualche cosa si intravede negli Stati Uniti, qualcosa in termini anche di fiducia dei consumatori si intravede come miglioramento, ma come stiamo dicendo ormai da settimane, noi diciamo non bisogna abbassare la guardia, l'emergenza non è affatto finita, anzi noi rischiamo che un pezzo del nostro sistema produttivo, soprattutto le piccole medie imprese più fragili, meno capitalizzate, possano chiudere, possono morire, quindi siamo ancora in emergenza ed è fondamentale continuare a stare vicino alle imprese. Sì, qua dunque i pareri, abbiamo sentito Berlusconi e Emma Marcegaglia, adesso facciamo un passo in Europa, anche perché secondo uno studio della Direzione Generale Ecofin la crisi si è portata via gli ultimi 20 anni, pensate, di consolidamento delle finanze pubbliche dei paesi membri. Cercheremo di capire quanto è grave questo allarme, questo monito. Allora salutiamo Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera. Buonasera Enrico. Allora, abbiamo accennato a questo studio, a questo documento che viene dalla Commissione e che riguarda il mancato consolidamento delle finanze pubbliche, anzi siamo tornati indietro di 20 anni. Prima però, siccome stavamo facendo anche un po' la carrellata di quelle che sono le dichiarazioni di giornata sulla congiuntura economica, ci sono anche le dichiarazioni del Presidente della Commissione Barroso, che oggi mi sembra preoccupato, è già un po' che questo argomento sta venendo fuori, dell'impatto sociale della crisi che sembra arrivare con un'ondata, una seconda ondata rispetto alle attività economiche, che riguarda la questione della disoccupazione. Ha detto Barroso, dobbiamo fare qualcosa perché nei prossimi mesi la situazione peggiorerà. Sì, in questo senso Barroso ha espresso la sua preoccupazione per quell'effetto ritardato in fondo che la crisi ha sul mercato del lavoro e ha detto un problema che rimane e che mi preoccupa è quello della disoccupazione, di mettere in piedi dei piani efficaci perché la crisi non è ancora terminata e ci saranno degli effetti sul mercato del lavoro preoccupanti. E poi ha anche però al tempo stesso, diciamo, dalla Commissione è arrivato questo segnale di non premere l'acceleratore su nuovi piani di stimolo che possano aumentare il debito dei paesi europei, ma che ci sia la necessità di andare verso un graduale risanamento, trovare l'exit strategy, insomma, uscire da questo periodo di piani di spesa e di stimolo e pian piano, gradualmente, ritornare su un terreno più virtuoso per le finanze pubbliche. Enrico, allora aiutiamoci a capire, perché se naturalmente nello stesso momento in cui si esprime preoccupazione per la disoccupazione e per l'impatto sociale della crisi che nei prossimi mesi potrebbe lasciare molte più persone senza lavoro, e però allo stesso tempo si dice di non intervenire con nuovi piani di stimolo dell'economia, quello che resta è attendere che quello che già si è fatto per rilanciare l'economia funzioni e anche, credo, forse intervenire sugli ammortizzatori sociali, su questo capitolo che tra l'altro per quanto riguarda il nostro paese è un capitolo, insomma, tutto da affrontare. Sì, sì, esattamente. Il capitolo degli ammortizzatori sociali, della riforma del welfare, delle riforme strutturali rimane da affrontare in questo periodo. È, come dicevi tu, una manovra molto difficile da fare, un po' come premere acceleratore e freno allo stesso momento, quindi evitando molto difficile di da dosare la gradualità, insomma, di piani che devono risanare le finanze senza appesantire troppo il debito pubblico, che sta risalendo un po' in tutti i paesi europei. Come dicevi giustamente, già nel giro di pochi mesi si sono annullati i progressi di 20 anni, e questo insomma già dà il segnale che si sta arrivando al limite della spesa pubblica. Ecco, da questo punto di vista, Enrico, non so se in precedenza la Commissione si era espressa in questi termini, ma insomma dire che negli ultimi mesi la crisi ha avuto per effetto da vari punti di vista, adesso tu ci aiuterai anche a capire, sia con i minori introiti per le casse degli stati per via proprio della frenata dell'economia, ma anche per quello che si è speso per cercare di rilanciare l'economia, dire che in questi mesi si sono annullati 20 anni di consolidamento delle finanze pubbliche, cioè di bilanci virtuosi. L'Italia sappiamo che da questo punto di vista è l'osservato speciale number one, fa una certa impressione. Sì, non dimentichiamo poi anche i salvataggi delle banche, che in Italia non sono stati impegnativi, ma in paesi come l'Irlanda o la Gran Bretagna hanno pesato assai sulle finanze. Sì, indubbiamente c'è questa necessità messa in luce da questo documento della Commissione europea di riportarsi a un percorso di sostenibilità, cioè la situazione del debito pubblico. Il debito pubblico è risalito, ma appare ancora in una situazione controllabile. L'importante è che ora la situazione non sfugga di mano e che quindi si torni a quello scenario di tasse di interesse più elevati e riduzioni della crescita, che possono avere degli impatti di lungo periodo, ecco, perché già si stima una perdita del potenziale di crescita a causa di questa crisi finanziaria, cioè una crescita frenata di circa il 5% rispetto a quello che era il potenziale di un tempo, proprio per i problemi del settore finanziario, tutti i problemi che sono stati connessi, insomma, un po' l'eredità, la pesante eredità di questa crisi. Bene, grazie, grazie Enrico Brivio, con te ci fermiamo qua, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Adesso vogliamo invece fare un passo in avanti sul tema e sul capitolo che riguarda il rapporto tra le imprese e le banche, con la cornice di tutto quello che abbiamo detto sino ad ora sull'andamento, la congiuntura economica, perché c'è da registrare alcune prese di posizione, a cominciare da quella del direttore del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, che ha detto la pulizia dei bilanci delle banche dagli asset tossici non è stata ancora completata, e questo fatto condizionerà la rapidità di uscita dalla crisi economica. Dunque, secondo Strauss-Kahn, direttore del Fondo Monetario, bisogna lavorare, nonostante tutto quello che si è speso, come ci ricordava anche Brivio poco fa, per risanare le banche in Europa e nel mondo. Secondo il Fondo Monetario invece gli asset tossici ci sono ancora e le banche corrono ancora, evidentemente, è quello che dobbiamo derivare da questo discorso, dei rischi. E poi, tornando invece in Italia, c'è chi, abbiamo parlato dell'Assemblea degli Industriali di Torino, c'è chi torna a chiedere la sospensione di Basilea 2. Il presidente dell'Unione Industriali di Torino, Gianfranco Carbonato, a margine dell'Assemblea di oggi, ha detto: in un momento eccezionale come quello attuale servono provvedimenti d'urgenza per consentire più flessibilità alle banche nella concessione di finanziamenti alle imprese. Torniamo ancora per un momento ad Emma Marcegaglia, al microfono di Silvia Alparone, perché su questo capitolo e in particolare sul rapporto tra le banche e le imprese il presidente degli industriali ha detto: stiamo studiando un fondo di investimento ampio con soldi pubblici ma anche privati che possa contribuire alla capitalizzazione delle imprese, lo presenteremo nei prossimi giorni. Qui siamo a margine di quello che è invece il problema del credito, è un altro aspetto. Sentiamo il presidente di Confindustria. C'è una parte attorno a un terzo circa delle imprese che è sottocapitalizzata, e noi pensiamo che oggi dobbiamo tutti lavorare per fare, per esempio, un grande fondo di investimento privato e anche con fondi pubblici che investa nel capitale delle imprese, e chiediamo anche che ci sia un aiuto fiscale a quegli imprenditori che decidono di aumentare il capitale delle proprie imprese. Cioè la capitalizzazione oggi è il vero tema fondamentale per sostenere le imprese.